chiamare voglio dal cielo. Lo spazio vincerà e sotto il sole lo vedrai passare, fare trionfa il mio grido e scendere qua. Cavaliere, adesso!